Il piano per l'uguaglianza è una misura che ci ha chiesto l'Europa ormai da alcuni anni. Le istituzioni europee chiedono a tutti coloro che utilizzano fondi Horizon di accompagnare la rendicontazione dei fondi con dei veri e propri piani, cioè dei documenti che contengono azioni di uguaglianza dall'ente che li promuove. Città Metropolitana, su forte impulso del sindaco, ha scelto di trasformare questo impegno in una policy, cioè nel costruire una vera e propria misura amministrativa per contrastare le disuguaglianze crescenti in questo tempo storico. A me piace ricordare che c'è una storia particolare a Bologna che non molti conoscono. Bologna è la città che nel 1956 nomina nella giunta la prima donna dal secondo dopoguerra a quei giorni con una delega molto particolare. Si chiamava Ai problemi della donna. A noi fa sorridere, ma siamo in un tempo in cui le parole ancora mancavano per dire quello che nel paese si conosce nel 1996, cioè 40 anni dopo, la prima ministra ha le pari opportunità. Il piano per l'uguaglianza si situa dentro quella storia, perché noi viviamo in un tempo storico in cui siamo abituati a vedere, per esempio, uomini e donne andare sulla luna, ma nessun paese al mondo ha davvero conquistato l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne. E quindi Bologna si è dotata di un piano per l'uguaglianza per promuovere delle azioni non sporadiche, non una tantum, non una cosa che può fare molta notizia ma di fatto cambia pochissimo, ma una strategia vera e propria che sta su cosa noi consideriamo necessario per l'uguaglianza nel lavoro retribuito, nel lavoro non retribuito, cura, conciliazione e condivisione, nel contrasto alla violenza, a sostegno a favore della cultura dell'uguaglianza e contro le discriminazioni multiple, additive e intersettoriali. All'interno di questa rassegna ci saranno diversi incontri, in particolare giovedì 11 alle 18 ai giardini di Villa Cassarini c'è un'iniziativa per conoscere un lavoro prezioso che viene svolto anche nella nostra città. Si intitola 10 domande ai centri antiviolenza e ai centri per uomini autori di violenza. Li conosci? Sai come lavorano? Cosa dobbiamo aspettarci da questo incontro? Intanto la rassegna si chiama La grande disuguaglianza, perché bisogna nominare le questioni che attraversano questo tempo storico. Esistono ancora enormi disuguaglianze tra uomini e donne che il nostro lavoro ha voluto mettere in evidenza, in particolare nel lavoro retribuito, per favorire l'uguaglianza. E la seconda iniziativa a cui teniamo moltissimo è legata alla violenza, perché l'effetto della grande disuguaglianza è soprattutto sulla violenza contro donne e minori. Bologna ha numeri e una carta d'identità di tutto rispetto: 6 centri antiviolenza, 3 centri per uomini autori di violenza, riuniti dentro un accordo metropolitano ormai da qualche anno, un unico su tutto il panorama nazionale, che mette a sistema l'ospitalità e l'accoglienza e il rapporto tra i finanziamenti ai centri che elargiscono le istituzioni. Voglio qui dire che non c'è solo un ente che sostiene i centri antiviolenza, qui tutti i 55 comuni del territorio, legati insieme da questo accordo, sostengono e finanziano i centri antiviolenza di Bologna Metropolitana. L'11 di luglio sarà possibile incontrarli direttamente a Villa Cassarini dalle 18 alle 20, saranno tutti presenti, e porre loro qualsiasi tipo di domanda, perché intanto noi vogliamo che questi temi siano accessibili, non sono temi per specialisti soltanto e non sono temi solo per chi è direttamente coinvolto, ma sapere di avere dei centri antiviolenza sul territorio significa sapere di avere dei presidi di sicurezza e di uguaglianza sul territorio tutto, ricchi di competenze, di azioni costruite nel corso del tempo e che appunto si rivolgono direttamente a chi ha subito violenza, ma più complessivamente fanno e promuovono cultura di contrasto alle disuguaglianze. E quindi l'appuntamento dell'11 è proprio rivolto prevalentemente al più ampio pubblico, per conoscere i centri, per sapere come funzionano e soprattutto per sapere che esistono sul territorio metropolitano bolognese, perché quello, insomma, che dico sempre è che il fenomeno della violenza, la differenza non la fanno tanto e solo i numeri. Certo che i numeri delle denunce sono importanti, certo che i numeri delle violenze sono importanti, bisogna guardare con molta attenzione anche alle risposte pubbliche che si danno a questo fenomeno, e da questo punto di vista noi siamo impegnati a rafforzare un vero e proprio sistema diffuso di contrasto alla violenza su tutto il territorio metropolitano. Non dimentico che negli ultimi due anni il piano per l'uguaglianza ha proposto in particolare due protocolli sottoscritti dal sindaco, uno per favorire l'autonomia lavorativa e uno per favorire l'autonomia abitativa di donne che hanno subito violenza. Senza casa e senza lavoro non si può parlare di un nuovo progetto di vita, cui noi invece, con una folta rete di alleanze, siamo impegnati.